rischiato davanti ai puri di cuore e con loro ho pregato il Signore. Non certo davanti a un papa truccato con il suo scettro che sembra un imperatore. Mi sono inginocchiato con chi piangeva lacrime e sangue ogni sera, preso a calci, sbattuto in galera, asfissiato da una misera miseria nelle strade dei sobborghi dove si lotta, nelle cantine che hanno sempre una porta aperta, nelle balere tra prostitute e mendicanti. Ho trovato molto di più di quello che si pensi, chi ha bisogno di far vedere la sua fede vuol dire solo che non ha nulla da mostrare. Mi sono innamorato dei luoghi del peccato, di dove pochi osano andare. Ho guardato da ogni buco, mi sono inginocchiato nelle catacombe dei senza fiato, nei labirinti degli elefanti, dove ognuno vomita il suo credo, negli atenei illuminati dalla vergogna, nei sottoscala di chi non ha mai avuto legna, nelle strade dei sobborghi dove si lotta, nelle cantine che hanno sempre una porta aperta, nei Vespasiani della città santa. C'è molta più fede, molta meno arroganza. Mi sono inginocchiato davanti ai non credenti che spesso hanno gli occhi grandi, grandi. Non certo davanti a vescovi di porpora vestiti che alle dita hanno scempi, scempi, scempi. Mi sono inginocchiato davanti agli ignoranti, a chi cerca di uscire fuori dal business dei diamanti, a chi mi ha dato la sua mano e la luce del suo cuore, a chi ha avuto sempre il coraggio di profumare le sue parole. Nelle strade dei sobborghi dove si lotta, nelle cantine che hanno sempre una porta aperta, nelle balere tra prostitute e mendicanti. Ho trovato molto di più di quello che si pensi.